Trippon, serve un po' di Windows. Ma faccia a fare il mouse. Faccia a fare il mouse. Incontri e avvistamenti dalla strada al cyberspazio. Un programma a cura dell'OA di Milano. Di un venerdì 17, sfidando la superstizione, Radio Popolare bacia Pai Mouse. È veramente venerdì 17? Non più, sfidando... da un'ora non è più venerdì 17. Allora è sabato 18. Però sul palinsesto siamo ancora in venerdì 17. Vabbè, questo è... Quindi vabbè. Posso togliere le mani da sotto al bancone? Anche sì, anche sì, devo dire, Ciccio, anche sei veramente vergognoso. Che poi diventi cieco. I gesti apotropaici. Come? Cos'era? Apotropaico. Milano, 18 ottobre 2003, un'ora imprecisata del pomeriggio. Al parco di via Confalonieri trascorre indolente un'ordinaria giornata di riposo e di svago. Mamme trafelate trotterellano spingendo passeggini infestati di bambini vocianti. Attempati signori passeggiano stancamente, parlando degli ultimi sperperi delle mogli e sfogando i bisogni dei loro deliziosi cagnetti da 50 kg pezzati mucca. Bambini assatanati rincorrono un pallone sdrucito, cercando di infilarlo fra due sedie. E un migrante tenta di vendere ciondoli a passanti assolutamente indifferenti. Ma in un angolo del parco delle presenze inquietanti confabulano infervorate indicando la strada, il cielo, le panchine, il vialetto, di nuovo la strada. Misurano a larghi passi la distanza fra due punti apparentemente insignificanti, quando ad un tratto uno di loro estrae un'antenna parabolica di un metro circa e la conficca nel terreno, con un palo ricoperto di lucine come un panettone ricoperto di canditi. Un altro estrae un computer portatile e visibilmente soddisfatto urla: «Abbiamo la banda!» Lo sconcerto travolge gli occupanti del parco, forse impreparati alle urla selvagge, o forse semplicemente impreparati alla notizia che per navigare su internet non serve un cavo. Gli inquietanti soggetti si allontanano tronfi, anche questa volta hanno portato la connessione, ora si sentono a casa. Quelle presenze sono hacker. Future lays out to me. You see, you Vabbè, basta musica, insomma, è 1:06, abbiamo un sacco di cose da dire, abbiamo un sacco di personaggi, ma oltre a noi che siamo già indiscutibilmente dei personaggi, ne abbiamo anche. Parli per lei, capito? Ah sì, così, sì, dici, mi personaggio da sola, va bene, io mi personaggio da sola, va bene. Siamo personaggi spiacevoli, però. Sì, un po' inquietanti anche, magari. No, proprio spiacevoli. Ah, va bene, insomma. Anche lei parli per se stesso, capito? Vabbè, insomma, stasera raccontiamo un sacco di cose, io poi prima o poi vado a recuperare la scaletta che ho lasciato dall'altra parte, ma non importa. No, improvvisiamo. Perché vediamo, tanto il primo argomento, ce lo ricordiamo, il primo argomento era, cos'era? Ma si parla di una cosa, un'iniziativa. Di una storia strana. Strana, una roba, misteriosa. Tipo, che sembra un film, ma non è proprio un film. A un certo punto ha fatto puff nella città, così è comparsa. Così è, una fioretta puzzolente. È comparsa no, lì. Sì, fioretta puzzolente, ma dai, ma insomma, un po' di rispetto per i personaggi, giusto? Stavamo cercando di creare il climax per introdurre la cosa e tu, fioretta puzzolente, cioè si fa climax, però in mezzo alla città. Guarda, in verità è peggio di una fioretta puzzolente, almeno per alcuni nostri amici. Così Sheldon è sempre di buon umore. Istituzionali, per loro siamo peggio che una fioretta puzzolente, siamo un sasso in una scarpa. Ma di quelli proprio che fanno male non ma si riescono a togliere. Secondo me lui al mattino un'etichetta nella maglietta. Presente l'etichetta dietro che ti si secondo me al mattino si sveglia e si ripete tutto l'organigramma delle forze di polizia, delle cariche istituzionali. E inizia la giornata con odio. Per suscitarsi l'astio dentro. E inizia la giornata con odio. Secondo me sì, infatti esco in bicicletta con un coltello tra i denti, una catena in mano e magari anche un fazzoletto legato nei capelli. Sì, con la bandiera americana, un paio di bandoliere di proiettili. Quella lì era sbagliata, quella lì vabbè, due catene di proiettili. Ma quando cadi in bici ti cauterizzi le ferite con un chiodo rovente? Vabbè, dai, riusciamo ma a farlo. Ma se la mattina apri l'armadio e c'è la foto di Almirante, così ti viene subito l'astio. Allora? No, stavamo dicendo prima che qua Zeist iniziasse il degenero. Ah, io? È un crasto, cioè veramente un rauso. Stavamo dicendo che il primo argomento di cui parliamo è questa iniziativa che è spuntata sul territorio metropolitano da due settimane a questa parte, che ha un nome abbastanza peculiare, che è Reload, che adesso è arrivata a dopo una storia di due occupazioni, questa è la seconda che è attualmente in corso, ed è un'iniziativa che ha parecchie finalità e che ha suscitato anche direi piuttosto clamore sulla stampa, perché molti giornali ne hanno parlato su pagine locali piuttosto che non in nazionale. È sostanzialmente un'iniziativa che si propone di aprire uno spazio che abbia come fulcro tematico la circolazione del sapere, lo scambio di conoscenze, l'accesso alla rete, la possibilità di veicolare nuove tecnologie e così via, e che ha scelto comunque una strada in un certo senso di rottura, perché ha puntato un'occupazione, e su questo diciamo che una parte della stampa si è scagliata in maniera piuttosto infervorata, mentre un'altra parte invece ha tenuto a sottolineare i lati migliori. Per esempio, un articolo che ci ha molto colpito parlando di questa iniziativa e con il quale apriamo è un articolo che è uscito su Libero. Vedo moti scomposti nello studio. Che sottolinea, anziché i lati positivi della cosa, in realtà fai casino mentre lo pigliamo, tipo proprio io parlando a caso. In realtà, siccome gli articoli di giornale sono a dimensione giornale, noi abbiamo pensato bene di appiccicarlo su un manifesto e di portarci qui stasera tutto il manifesto. Esatto, praticamente è un foglio murale. Esatto. Allora, sono riuscito a recuperare la rassegna stampa. Perché siamo riusciti a staccarlo dal muro, sennò portavamo un esatto, anche il muro, esatto. Dicevo, Libero punta molto sulla questione dell'occupazione, vi leggo alcuni passi così capite il tono dell'articolo. L'introduzione dice: si sono detti vogliamo un nostro internet point, perché non occupare quel negozio sfitto in via Confalonieri? Quindi l'apertura direi che è abbastanza chiara. Così proprio. Così, e sostanzialmente va avanti sostenendo la tesi che le persone che hanno aperto Reload sono delle persone che sostanzialmente vogliono fare finalità di lucro, per cui in realtà puntano ad avere un negozio e sostanzialmente lo vogliono fare a sgamo, quindi senza pagare licenze. E quindi hanno detto: perché spendere dei soldi quando possiamo occupare illegalmente? Allora, siccome questo articolo ci ha molto colpito, visto che ci sembra anche abbastanza schizofrenico, parla di autonomi e disobbedienti insieme, abbiamo deciso di commentare questo articolo con il direttore della testata, Fitto Velcri, che abbiamo, che forse credo, al vediamo telefono. Se abbiamo in linea. Signor Velcri? Sì. Sì, buonasera. Buonasera, buonasera direttore. Buonasera. Direttore, stavamo commentando giusto in questo momento in trasmissione l'articolo su Reload che è uscito sul suo giornale. Ci vuol dire qualcosa in proposito? Ma guardi, noi di Liberto è da una vita che diciamo che non si può continuare così. I cittadini continuano a protestare contro questi autonomi dei cosiddetti centri sociali che veicolano contenuti aberranti sulla casa, sulla droga e tutto il resto. Non è pensabile che uno Stato democratico e sano si lasci tutto questo terreno a questi criminali. Spaccano, distruggono, saccheggiano, prendono quello che vogliono a danni dei cittadini che pagano onestamente le tasse e reclamano giustizia. E ora siamo alla beffa estrema. Questi vogliono aprire un negozio senza pagare la licenza. Ecco, proprio su questo gli occupanti protestano per la definizione di internet caffè che voi date. Dicono che in realtà l'iniziativa è ben più estesa e articolata. Lei gli crede? Ma neanche per sogno, cioè, li conosco io questi mestatori, professionisti della menzogna che iniziano con tante belle parole e finiscono col fondare un giornale. Guarda, io lasci dire a me queste cose che le mastico, non c'è niente di esteso ed articolato. Questi si svegliano la mattina e invece di andare a lavorare si dicono: ma perché non apriamo un internet caffè? E siccome sono troppo pigri per chiedere la licenza, allora occupano un posto del comune, che c'è un posto privato, quindi. Scusi, credo di non aver capito, come sarebbe a dire privato? Privato, certo, il comune ora è privato, non lo sapeva. Si sta pensando pure di cambiargli nome, che se si continua a chiamarlo comune, prima o poi si cade nell'equivoco di credere che debba operare a beneficio della cittadinanza. Sa, la cosa pubblica e tutte quelle altre baggianate da prima repubblica, qui siamo alla realizzazione di un piano di rinascita democratica, non c'è posto per gli internet caffè insurrezionalisti. Vedo che continua ad usare il paragone con un internet caffè, allora ammettiamo che lo sia, cos'ha che non va un internet caffè? Beh, intanto io se mi voglio bere un caffè mica devo andare in internet per ordinarlo, no? Ci sta Franco al bar di sotto, qua sotto casa, che non ha manco il fax e fa un caffè che è una favola. Il segreto sta tutto nella miscela. Mi ricordo che mia nonna faceva un'ottima moca e da bambino mi mostrava come fare i tre buchetti, no, col fiammifero, prima di chiudere la caffettiera. Certi schiaffoni mi tirava quando dimenticavo di mettere l'acqua. Ma ora sono grande, non mi ci faccia pensare. Ma di che stavamo parlando? Stavamo parlando di un internet caffè prima che lei, mi scusi il gioco di parole, miscelasse tutto. Ah, giusto, giusto, il caffè. Allora, glielo dico io. Sono dei buoni a nulla, non hanno spina dorsale e passano la giornata a bere caffè. Sarà per questo che poi picchiano e devastano tutto. Sa, se alle 3 sei già al decimo caffè, non ti si può neanche starnutire accanto che subito diventi facinoroso. Si fidi, lasci dire. Che li sbattano fuori di lì e si vadano a prendere un posto sudando e pagando le tasse come fanno tutti. Però loro contestano proprio le politiche comunali sul fronte dell'aggregazione giovanile, sulla possibilità di creare proposta culturale e formativa sul territorio sulla base dell'auto-organizzazione spontanea. Denunciano la scarsità insostenibile di bandi e di assegnazioni. Guarda, lei usa parole difficili e poi si stupisce che la gente non la capisce. Mica c'è bisogno di usare paroloni. Basta usare parole semplici e ripeterle più volte che alla fine acquistano senso per tutti. Anch'io quando ero giovane avevo grandi idee, Volevo, pensi, fare una squadra di calcetto con la palla da tennis, avevo fatto anche i disegni delle magliette. Perché crede che abbia fatto un giornale che si chiama Liberto? Parole semplici, di immediata comprensione, che arrivano come una mannaia. E poi lei provi a dire o solo a pensare che un giornale che si chiama Liberto sia reazionario, un controsenso, no? Non ci crede? Le magliette erano fucsia, un bel colore, no? Ma scusi, sono anni che il comune centelli nei bandi di assegnazione per gli spazi giovani, per i locali alle associazioni e così via. Non crede che una politica differente magari eviterebbe qualche occupazione? Ma guardi, io non mi occupo di aggregazione giovanile, io scrivo quello che devo scrivere, porto avanti un progetto, ecco. Faccio ogni giorno un numero del mio giornale e spero che un giorno mio figlio seguirà le mie orme e non diventi mai come questi sbandati balordi. E poi Dio santo, cioè, ma questi non invecchiano mai. Basta parlare di giovani, insomma, no? Grazie davvero, direttore, per l'intervista che ci ha concesso. Un'ultima cosa, scusi l'indiscrezione, ma Fitto è il suo vero nome? Sì, cioè, non è, è un diminutivo, sa, come Montanelli, insomma. Diminutivo di? Sarebbe sconfitto. Grazie di nuovo, direttore, a risentirci. Grazie, direttore. Sì, salve, a risentirmi. 2024, Radio Popolare va a Pai Mouse. Stavamo appunto parlando di Reload. Abbiamo sentito l'intervista al direttore di Liberto. Beh, insomma, che direi un intervento significativo. Assolutamente un intervento molto significativo. Sulle occupazioni abusive, sull'apertura di nuovi tipi di spazi, su, diciamo, le varie miscele di caffè. Insomma, è stato un intervento. Mi è piaciuta la parte sul progetto quotidiano, perché rende bene l'impegno di sì. No, d'altra parte, l'altro. E poi il dramma di queste persone che hanno questi nomi, insomma, un po' che insomma, ti segnano per tutta la vita. Sì, c'era anche la canzone di Elio a riguardo, mi ricordo. Comunque io. Drammatico. Tra le altre cose, parlando con i ragazzi di Reload, ho sentito loro non usano fare i tre buchini sul caffè, quindi in effetti sono degli incidenti. Là ci voleva la mamma del direttore, veramente, cappellotti. Ma è grave. Sì, è terribile. Questa è una cosa che purtroppo va detta. C'è da dire che potrei portare una testimonianza in diretta, io ho visto circolare pochissimo caffè, questo forse scombina un po' le cose. Cioè. Ma non mettono neanche il granino di sale grosso, oltre a non fare il granino di sale grosso? Il granino di sale grosso, è una cosa che un amico napoletano mi aveva raccontato che dai il pinch. Secondo me ha pensato il tuo amico napoletano ha detto pinch. Cambiato il dialetto. Cioè gli amici napoletani, perché vogliamo discutere di come sono colti i napoletani? Facciamo del razzismo. Che era per cultura. Secondo me semplicemente il napoletano ha pensato di pigliare il culo al milanese. Sì, metti lo sale, sì. Un po' di peperoncino, una aspirina, magari funziona. No, io devo dire che ci ho provato, eh. E il pinch? Il pinch c'è. Era alto. No, non si sente. Esplosa la caffettiera. Un tube, non si sente. Un tube comunque va bene. Come cultura stasera. Esatto. Vabbè, insomma. Esatto. Impressionato sono. Comunque devo dire che sentire cioè soltanto una parte delle due che si esprimono a me fa specie. Io che sono un giornalista professionista da oramai tanti anni come il direttore di Liberto e quindi sono serio e preparato, mi meraviglio e mi stupisco del fatto che non ci sia diritto di replica. Ma chi è? E infatti qui abbiamo di che soddisfarti, perché proprio per bilanciare i pareri noi abbiamo chiesto a un personaggio eminente, una persona che si occupa di soprattutto meglio eminente, una persona che si occupa di fare studi approfonditi su questi argomenti circa appunto le parole, l'uso della conoscenza, circolazione, il professor Ricaricati, che è stato così gentile da prepararci una pillola in cui ci spiega alcune cose circa il concetto di Reload. Fico. Ascoltiamo la pillola? Sì, vai, ascoltiamo, vai. Ascoltiamo la pillola. Un attimo, perché la pillola non parte. Come che era, con un poco di zucchero? Adesso è terrificante. Aspettiamo un attimo che la pillola non parte. Panico tecnico. Buongiorno e bentornati a Perché Reload non è un internet caffè. In un internet caffè puoi navigare in internet pagando a tempo. A Reload puoi navigare in internet a gratis. In un internet caffè usi software proprietario, a Reload usi software libero. In un internet caffè puoi berti un caffè, anche a Reload ti puoi bere un caffè. In un internet caffè puoi chiacchierare con la gente e se trovi qualcuno simpatico puoi anche imparare qualcosa. A Reload facciamo corsi di informatica e se impari qualcosa non è per caso. Un internet caffè è un commercio con lo scopo di fare profitto. Reload è un'iniziativa allo scopo di diffondere libertà. Un internet caffè non fa notizia sui giornali. Reload, sì. La parola Reload è una parola che si presta a diverse interpretazioni. Nasce dall'unione della parola latina re e da quella inglese load, che significa ricarica. Ricarica, riattiva, ricolma, riempi. Sono solo alcuni dei diversi significati che la parola reload può ricoprire. Il prefisso verbale re indica ripetizione, come reiterare, o movimento in senso opposto, come reagire, oppure coopera alla formazione di verbi denominativi, refrigerare, più letterario di ri, laddove le due forme coesistono, recuperare o ricuperare. Il verbo load viene scritto load, L-O-A-D, usato da solo nell'inglese indica una quantità che può essere trasportata o processata in un tempo solo, una sola volta. Genericamente indica qualcosa che può essere spedito o trasmesso. In senso commerciale, dei beni portati da grandi veicoli. Informale, una quantità d'alcol sufficiente ad intossicarsi. Scientifico, la fuoriuscita di potenza emessa da un generatore. Militare, provvedere alle munizioni. Familiare, un onere o carica particolare. Mineralogico, un deposito minerale di valore che si forma fra definiti contorni separati da rocce confinanti. Gergale, caricare su qualcosa. Generico, essere carico, pieno. Questi sono solo alcuni esempi a cui la parola reload può essere applicata. Ascoltandola, come si può pensare solo ad un internet caffè? Nell'accezione milanese, reload significa laboratorio multimediale, access point, corsi di informatica libera, corsi di produzione audio e video, costruzione di una radio, centro di diffusione dell'informazione che deve essere libera. Direi dottissimo questo intervento, sono assolutamente impressionata da sì, questo. Sì, veramente significativo, secondo me ha dato un tutt'altro respiro alla discussione che faremo questa sera. Assolutamente sì, questi accademici peraltro sono sempre... Non ho capito perché non ha parlato del caffè, cioè dei buchini, delle cose... È un altro perché stile. Non aveva gli amici napoletani, no, secondo me. No, è un altro stile, io lo conosco, cioè, è chiara fama oramai. Sì, sì, quindi non ha bisogno, insomma, tutto sommato. Parla da solo, voglio dire. Nel senso che cioè, tu gli parli, però lui parla da solo. Però lui ne conosco un altro, così, come ce l'ho di fronte, mi viene da dire. Non è un accademico, non è un accademico. È proprio così, uno smandrappatiello, però, insomma, come dire. Cosa, scusa? Scusa, smandrappatiello. L'amico napoletano, non capisci niente. Va bene, insomma, c'è Zesca che sta demolendo Ciccio perché vuole passare. Dai, fai il casino che devi fare. Ma non potevi stare fuori in teleconferenza, no? Devi fare per forza casino. Deve fare per forza casino. È un rauso. Vabbè, insomma, e quindi adesso che abbiamo avuto questi dottissimi interventi possiamo andarcene, dici? Sì, perché noi ovviamente non siamo un direttore di giornale, un professore universitario, cioè noi, cioè qualunque noi cosa noi si dica adesso infatti assolutamente. Vabbè, direi che insomma umilmente ci proviamo, insomma andiamo proviamo a raccontare un po' di cose, proviamo a raccontare, va bene. Siete sui ceci? Ovviamente siamo tutti rigorosamente in ginocchio, però non sull'uva passa che volevo mangiarne un po'. Ah, scusa. Quindi se magari. No, passala. Non la dire passami l'uva passa. Stasera Gino Bramieri proprio, Guarda, veramente, proprio. Vabbè, insomma, quindi cos'era Reload? Cos'era? Il professore Caricati cosa diceva su Reload? Che appunto non è un internet caffè. Ci spiegava le differenze, insomma mi sembra piuttosto evidente. No, ma poi anche il direttore di Liberto diceva d'altra parte che se vuole bere un caffè non ha bisogno di andare in internet. Esattamente. È ovvio, quindi. Io credo che diciamo forse sarebbe il caso di dare un look inside al non significa cioè, un caffè. Stasera siamo sull'internazionalismo spinto. A quei livelli non ci arrivi. Dal greco look. Il trucco poi mi fate dire le mie minchiate, no? E poi dopo Molto bello, cioè un'endoscopia. Insomma, diciamo che se non sono troppo eclatanti ti diamo corda. È che in questo momento non mi ricordo neanche come mi chiamo, quindi figurati se mi ricordo l'inglese e il look inside. Vabbè, è una roba della BSMZ. Sì, è vero, scusa. Comunque credo che in milanese stia qua Fabalalech. Secondo me ha una buona traduzione. Non è, ma lui, come dire, viene un po' da. Comunque, facendo Balalech, come dite voi padani, dei vichinghi, voi lanzichenecchi. Dicevo, il look inside significa cominciare a partire dal fatto che questo spazio, cioè in via Confalonieri al 4, giusto? Non dico minchiate, vero? Troppo grosso. Al 3, 4, siamo lì. E di fronte al parchetto è vicino alla stecca degli artigiani. Esattamente. E la cosa incredibile è che la sua fisicità, cioè il suo essere lì, il suo essere presente sulla strada, è solo il più piccolo degli aspetti dei progetti che ci sono. Nel senso che lì, secondo me, diciamo il mio look inside è questo, secondo me lì quello che succede è che si aggregano e partono una specie di piattaforma di lancio per tutta una serie di progetti, tant'è che già domani ci saranno una serie di assaggi di quelle che sono le potenzialità di questo posto. Stiamo parlando ovviamente di un posto fortemente votato alla comunicazione, però è un posto che pone molti problemi, nel senso che il primo problema che pone è la sua esistenza, quindi il suo diritto di esistere nella città, di interagire, come si vuol dire, nel tessuto metropolitano, cioè di fare la sua rete e quindi portare la possibilità di comunicare. E in parte la ripresa di una serie di cose che secondo me qui abbiamo più volte detto. Bello le chiavi. abbiamo più volte detto, e non facciamo le minchiate tecniche. Ma così, ma i rumori di sottofondo fanno parte così, della vita di studio. Posso tirare su col naso? No. Masticare? Assolutamente, no, masticare adesso fra due secondi ci pensa Odo. Sai che Daniele sembra che abbia una voce molto simile a quella del professore Caricati? Secondo me è una coincidenza. Dici che è suo fratello? Beh, può essere. È l'accento della cultura. Li hanno separati nella culla, dici? Ma chissà, anche sì. Può essere. Anche chirurgicamente dopo. Che possiamo comunque saperne? Questa cosa che tu rilevavi del fatto che in realtà l'aspetto fisico è soltanto uno e probabilmente e neanche il più preponderante, però sto facendo un discorso serio, non mi puoi intervenire in questo modo. Lo stavo per dire, io lo giuro. Perché qui le calzate si sprecano. Io volevo aggiungere anche esuino, però. diciamo, hai colto nel segno. Nel trino, esatto, si è finito nel trino. Perché poi in realtà secondo me anche il logo che Riloda utilizza, questo cerchio con i tre bracci che rilanciano verso l'esterno, simboleggia proprio quello. Non vuole essere un punto in cui quello è un'identità, un soggetto ben definito, ma non in realtà era una stelletta da ninja? No, non era una stelletta da ninja. Però in realtà è un punto di aggregazione, come dire, un acceleratore che rilancia, che fa da prima da aggregazione e poi da rilancio verso l'esterno sul territorio. Sì, voglio dire, questo è vero perché ci sono i progetti, adesso vabbè, un po' di sano spam che fa sempre bene, ci sono un tot di progetti come l'accesso libero e gratuito a internet, che non significa soltanto, ah bella parliamone, ma effettuarlo, quindi in via Confalonieri, perciò dare macchine che ti permettono di navigare in internet gratis, creare quindi di conseguenza un'infrastruttura di rete senza fili perché il parchetto di fronte possa essere utilizzabile anche in questo senso, perché il quartiere goda della possibilità di creare una comunità che scambia informazioni attraverso l'uso di questa rete, quindi come dire, far lavorare le persone su quelle che sono le cose interessanti, cercando di dimostrare quello che è il vero impatto sociale di queste tecnologie. Ecco, io credo che quello che diciamo sia stato forse frainteso da molte persone sia il fatto che uno spazio dove si può accedere a internet in maniera gratuita o la costruzione comunque di una rete wireless attorno al quartiere non siano semplicemente gli elementi di un internet caffè un po' più innovativo degli altri, ma è il portare una tecnologia che dovrebbe essere accessibile a tutti perché è fondamentalmente uno strumento per accedere all'informazione, uno strumento per comunicare, care alla gente, mentre oggi questo viene in forma soprattutto, anzi esclusivamente sotto forma di qualcosa a pagamento. Io pago per avere accesso alla banda, io pago per avere una banda più veloce, io pago per avere accesso a internet, e è questo il meccanismo che vogliamo anche spezzare con Reload, il concetto di creare postazioni libere in cui chiunque può navigare in maniera anonima, sicura e gratuita, e quindi avere accesso in forme gratuite e anonime alla più grande rete di comunicazione e di sapere che ci sia. È questo, diciamo, una delle cose fondamentali che ha spinto Reload a fare questo, a parte Ciccio che sta facendo dei gesti inconsulti. Niente, ero commosso. No? Ma più che altro perché, secondo te, come concetto, la gente ha diritto a... cioè un diritto... Esatto. Normale a avere accesso all'informazione, alla rete. Accesso all'informazione, sapere, deve essere un diritto di tutti. E a tutte le informazioni presenti nella rete, sia buone o cattive, poi questo ognuno. E anche aggiungerne di altre nella rete. Ovviamente, essere quindi completamente interattivo con la rete... potere mangiare fa male, mi va di traverso queste cose qua che non so cosa poter usufruire di tutte le potenzialità che offre, insomma, ecco. Credo che volevo dire questo, per dare diritto all'accesso all'informazione a tutti i cittadini, tra l'altro. Esatto, tra l'altro, ecco, però il bono scuola non ce la danno mica poi a noi ci manca lo sapevo, c'è nei denti, però come si operi, anche varrebbe la pena di discutere, scusami, di come si operi a fare ciò. Allo stato attuale quello su cui stiamo lavorando a Reload sarà prima di tutto la riorganizzazione di quello che è lo spazio dal punto di vista dell'infrastruttura, quindi computer, PC, ovviamente tutto software open source, tutto software free, per la navigazione, appunto per consentire l'accesso a internet alle persone. Dopodiché appunto l'altro progetto fondamentale che è portato avanti dalla comunità di Reload, uno dei progetti diciamo che a me sta più a cuore, è quello di Milano Wireless, ovvero la creazione di una rete civica per ora di quartiere comunitaria di tipo appunto non cablato, semplicemente via onde radio, verso i cosiddetti protocolli wireless. Fondamentalmente uno degli aspetti che a me piace di più di questa cosa è che questa sarebbe una rete non solo per la comunità, ma una rete fatta dalla comunità, dove sono nate le reti wireless civiche in altri posti, in altri stati, sono sempre state reti fatte dalle comunità. A me questo concetto che le persone possano non solo avere una rete libera, gratuita, di tipo wireless, ma possono anche contribuire alla creazione e all'evolvere di questa rete di comunicazione e di scambio di sapere, per me è una cosa notevole ed è una cosa secondo me fondamentale di Milano Wireless. Io comunque ho anche la mia maniera di rispondere a questa domanda qua. Io credo che questa cosa si faccia insieme, nel senso che il reload pone una serie di problemi che sono quelli che abbiamo già detto finora, e a differenza di chi pone soltanto problemi cerca una soluzione, nel senso si propone, si espone in prima persona e porta attraverso le competenze di chi fa parte del progetto di reload la meccanica di rete lì dove la meccanica non ci potrebbe essere, quindi cerca di colmare quello che è una distanza, lo fa nella prassi, cerca di poi di insegnare come si possa fare dopo, e credo che la cosa più importante sia che questi progetti sono del tutto partecipati, o meglio, sono del tutto aperti, partecipabili e partecipati. Quindi chiunque sia interessato a questo tipo di costruzione può venire a vedere come noi abbiamo fatto il nostro piccolo esempio e abbiamo dato la nostra risposta. Peraltro, Reload, a sto giro, avvalendosi di alcuni bei contributi di filmati, ecco, sta cercando di portare avanti una documentazione audio-video che passa sul sito, su quello che è questo tipo di costruzione. Ecco, diamo l'indirizzo intanto del sito, proprio perché sia possibile per tutti, così andare un po' a guardare e a capire. Allora, per gli smanettoni, all'ascolto, reload.realityhacking.org. Spelling. Sì, fai tu, dai, guarda. Reload, scritto reload.realityhacking, con l'H davanti, A-C-H, hacking.org. Ecco, ridi un po' reload, per favore. Reload. Hai ragione, sai che c'è questa strana somiglianza. È vero che ci assomiglia, è un po' questo. Te l'ho detto. Poi su questo reload con quest'R così arrotata, no? Cioè proprio. Scusa, di un po' Internet Caffè. Due punti slash slash. Ah, beh, no, ma non ci sono le R non vanno bene. Vengono meno bene dove non ci sono le R. Io ho anche un altro grosso argomento che secondo me pone avanti il reload. Solo che non so se c'è, cioè, tipo mandiamo la musica oppure ne parliamo. Anche ora. Sì, guarda, anche sì, direi tutto sommato. Vai che mi faccio anche una siga, bella! Possiamo anche mandare la musica. Così, dietro le quinte in diretta. Voleva dire sigaretta, eh? Non avevamo dubbi. Una stizza! There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stars are of gold. With the word, she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Makes me wonder, makes me wonder. 53 Radio Popolare va a Ciappa e Mausa. Davvero? Stavamo in che senso? Ma sembrava un po' ecclesiastica. Il finale, sì, il finale era un po' così. Sentivo questo odore di incenso. Un po' gregoriano, della devo dire un po'. Era un po' gregoriano, sì. Ma no, ma io... No, ma sei tu che non capisci questa rivisitazione di queste atmosfere oniriche in questa dimensione psicologica in cui hanno fatto tutto questo lavoro di ricerca sulle timbriche musicali. Beh, tu t'ha fatto male, professore Caricati, eh? Un pochino. Cercavo di darmi un tono. Vedi. No, pensavo che parlavi di percorsi. Paletti. Sinergia. Orizzontalità. Rete di soggetti. Vogliamo parlarne, cioè, tac. Certo. Cosa dico a fare? Se vi voltate dentro con l'argomento. Adesso andiamo avanti con avverbi ed esclamazioni, oppure riusciamo anche ad andare avanti con... Sì, tiriamo le quattro. Così, tutti gli avverbi di modo, di tempo. Io riprenderei da... Fortissimamente. Assordo. Qualcuno picchi quell'uomo. Beh, si è fatto tardi, penso che devo andare a casa. Dicevo, riprenderei dalla parte in cui abbiamo lasciato prima di questo splendido, lunghissimo pezzo. Led Zeppelin. Bravo, ti sei salvato. Ah, sì. Che culo. Non fatto dei Led Zeppelin, ma Led Zeppelin. Chi l'ha suonato? I Beatles. Perché Odon è venuto stasera? Questo pezzo e molti Stavo altri pezzi. I Beatles. Questo pezzo e molti altri pezzi nella mediateca di Reload. Là, lanciato anche lo spottino, hai visto? Fico. Ah, sì? Però non è vero, però ci sarà. Te la stai abbaiando. Infatti, cioè, prima che arriva e lo cerca e non lo trova, ci mena. No, mena Tix, cosa volete a me? Ah, così. Ma no, cosa c'entro io? Ci saranno le registrazioni. Domani mi tengo i capelli. Cioè, non hai capito, no, uno entra, non mi fa, ah, ma ce l'avete Stairway to Heaven fatta dai Negro Boys? Io, no. E questo mi mena. Ma quello mi ha detto che c'era, io, ma cosa? Cosa c'entro? Basta. Ah, meno male. Così, andiamo avanti. Scusate, oh, cioè. No, stavo dicendo, secondo me una delle caratteristiche importanti insieme ai progetti, che sono molti, scusate, ma intanto sto sgranocchiando. Questo non è bello. Comunque dicevo, una delle cose importanti è il fatto che, come accennavo prima, secondo me la parte logistica del progetto Reload... Tienile, se no si sente il rumore. Sì, esatto, insomma, adesso stai anche un po' fermi, bimbi. Le orecchie degli ascoltatori che non abbiamo ancora ucciso magari riescono a resistere ancora un altro pochetto. I due sopravvissuti. Esatto. Comunque, dicevo, secondo me una delle cose più interessanti è che noi abbiamo occupato e rioccupato. Voci da un altro mondo giungono a disturbare le nostre trasmissioni. Sarà un'invasione. Anche sì, forse. Sente le voci. Sono gli gnoppidiani che ci stanno invadendo. Sì, proprio loro. Basta che non vedi la Madonna, poi va tutto sono bene. Sono gli gnoppidi. Comunque dicevo, noi abbiamo noi, i ragazzi di Reload, noi. Che simpatici soggetti. C'è stata una prima occupazione in Piazzale Segrino e una seconda sempre in quartiere Isola. Perché una seconda? Come è andata la prima? È perché la prima è andata che ci hanno sgomberato dopo tre giorni. Li hanno sgomberati. Dopo tre giorni si può dire Dio in radio? Dipende da cosa. Parole scegli per accompagnare la parola. Secondo me non prima si può dire. Secondo me non si può dire. Ci sono due o tre paroline. Alla brutto Dio. Alla brutto Dio. Cioè, questo significa che c'è stata una soverchiante presenza di forze. Paroloni. Sì. Tipo, non so, quando facevo la collezione dei Playmobil, tutti quanti. Wow. Insieme. E questo per operare uno sgombro, cioè uno spazio in cui alla fine c'erano tre persone soltanto, quindi come dire, una chiara e estrema volontà di mostrare i muscoli e quindi dare un segnale, tant'è che questa seconda occupazione avviene comunque nel quartiere Isola proprio perché secondo noi il quartiere Isola è in questo momento esemplare di quelle che sono le politiche sui giovani e sugli spazi sociali a Milano, nel senso che è un quartiere in trasformazione che da una base popolare sta diventando un quartiere di moda figo dove gli affitti al metro quadrato lievitano in continuazione, sono sui 5 milioni e mezzo di e dove stanno lire. Oltretutto nascendo locali di lusso, cioè, sì, ma c'è stata Isola è sempre stato storicamente un quartiere popolare, insomma, anche quindi... questo articolo sul Corriere credo di luglio in cui si parlava del progetto Albertini per cui c'era Hyde Park a Milano che non ho capito dove cazzo dovesse essere. Ops, scusate. Non si può dire Albertini, visto, hai ragione. Visto che tra l'altro sull'unico parco che c'è in Isola, che tra l'altro è quello in di fronte a Reload, in realtà stanno pensando bene delle, di costruire delle mire esatto edificatrici e cementificatrici. Sì, per infatti cui... ci sono anche dei comitati di quartiere, nel senso che il quartiere riceve questo tipo di pressione, la sente, l'avverte e cerca di dare la sua reazione. Noi che abbiamo sempre operato in questa zona, un paio d'anni almeno a questa anche parte, di più, se anche pensi di che più. Prima c'era Metropolix, che Garigliano, che Pergola, sono comunque lì, e noi che abbiamo operato lì per tutti questi anni sentiamo tanto quanto il quartiere la necessità di dare una risposta. Il tipo di riscontro che c'è stato in queste due occupazioni è sempre stato di profilo molto basso, nel senso che al primo giro non c'è stato nessun tipo di confronto particolarmente costruttivo, visto che dopo 48 ore sono venuti a sbatterci fuori, e in questa seconda occasione il tipo di ragionamento non è mai stato veramente approfondito, serio, basato su quello che può essere una critica costruttiva alle politiche metropolitane sulla gestione degli spazi sociali, nel senso che ci si banfa a destra e a manca che c'è stato una serie di bandi per le associazioni, i più grandi spazi, cioè il più grande numero di spazi da, che ne so, 10 anni a questa parte, sono tutte grandissime cazzate. In realtà credo che l'ultimo bando sia più di 2 anni fa. Esatto, e più di 2 anni fa, e comunque sia la lista d'attesa, visto che piacendo al Signore, Milano è una zona in cui molte realtà differenti si muovono sulla tentativa di dare risposta delle necessità proprie, che però sono più allargate a delle fasce sociali basse, e quindi fanno recupero su le situazioni giovanili, cercano di introdurre elementi di, non so, tipo reinserimento di persone che sono andate a San Vittore, oppure operano su quello che può essere l'assistenza spicciola sul quartiere. Cioè ci sono moltissime realtà di questo tipo, e gli spazi ci sono. Dall'altra parte gli spazi ci sono, nel senso che l'occupazione di Reload non è stata un'occupazione fatta su uno spazio lasciato 2 mesi prima dal comune e è stato operativo finora. È stata un'occupazione fatta su uno spazio rimasto sfitto inspiegabilmente per 10 anni, 10 lunghissimi fottuti anni, in cui è rimasto lì a fare la polvere, e che quando è stato preso per farci qualcosa che serva a tutto il quartiere, che cerca di portare con i corsi, con il wireless, con la sperimentazione del laboratorio di elettronica, con la radio FM, con una serie di cose che comunque tra il sito e quello che diciamo noi si vede, che c'è, quando c'è una realtà di questo tipo che è un'associazione che ha provato il percorso associativo, che ha già, passatemi il termine tecnico, preso nel culo tante mazzate da parte di quella che è la gestione della politica a Milano sugli spazi sociali, quando questa situazione cerca di fare uno strappo e di portare avanti un discorso più ampio respiro, la risposta è che il percorso associativo è, diciamo, la risposta è quella di Libero, anche da parte di quello che è il rapporto istituzionale. Oppure costruire le cattedrali del deserto, modello fabbrica del vapore. La fabbrica del vapore è l'esempio della politica della giunta Albertini su questa città, è il nulla cosmico, il vuoto spinto messo davanti al Burg, che è uno spazio dove da almeno un anno a questa parte si può fare molto meno e con molta più fatica, perché gli è stata tolta la corrente elettrica. Tra l'altro. E quel posto, spaccava. Tra l'altro, per chi non avesse presente, la fabbrica del vapore è uno spazio da quanti? 5.000 metri quadrati, enorme, è una superficie enorme, gigantesca enorme. Che io ricordi ristrutturato solo in parte, e che io ricordi ha avuto 2 aperture. Un'inaugurazione ufficiale, 3 volte aperto da quando esiste negli ultimi 2 anni. Io ne ricordo una organizzata, tra l'altro, se non sbaglio, anche con giro underground, perché era improntata alla realizzazione di graffiti, c'era anche dietro un concorso, se non ricordo male, e poi alla fine le persone che realizzarono questa cosa spesso venivano proprio dagli spazi sociali, perché è da lì che nasce questa cultura. E un'altra invece mi ricordo un'iniziativa agghiacciante in cui venne pescato del soggettume del tipo di Ricone, l'Arcuri, eccetera, e quella era l'emblema della politica nei confronti dei giovani del Comune di Milano, prendere i VIP dello Star System, piazzarli lì, e quello per il Comune di Milano una volta all'anno è aggregazione giovanile, quindi oltre a fare schifo pure una volta all'anno. Naturalmente la domanda che io mi pongo però è, per questi 3 giorni d'apertura della fabbrica del vapore, che è questo enorme meccanismo pacchiano di creazione di uno spazio finto sociale, quanto è stato speso dei soldi pubblici dall'amministrazione? Questa è una bella domanda, cui bisognerebbe dare una risposta. Questa è una bella domanda. Io ho un'altra domanda, io mi chiedo perché posti come, oltre il Bulk che non ha corrente elettrica, come Torchiera per esempio, che non ha l'acqua. Che non ha l'acqua. Non ha l'acqua da un botto di tempo, e che comunque è sotto sgombro da un botto di tempo. Da una vita. E sono i posti che invece nella città producono energia, producono cultura e producono senso, e fanno da risposta alle mancanze di quello che è la gestione della città. Ora, non è che io mi senta di, come dire, non voglio stare a fare il comizio, però come persona che si vive la merda che questa città gli dà, se io riesco a dare una risposta in qualche maniera propositiva, beh, io in qualche maniera pretendo attenzione, perché non è un mio problema singolo, è un problema di molte persone, e io sto cercando di dare una risposta lì dove le istituzioni mi mancano. Quindi più che sentirmi dire no, vai via, essere sbattuto fuori dai posti, cioè su Reload comunque pesa lo sgombero che è stato già annunciato, quindi c'è una situazione di rottura ancora. Noi siamo la dimostrazione che in un posto che non serve a un cazzo da 10 anni, che lì a non fare un cazzo da 10 anni, quando ci si mette qualcosa, comunque no, non va bene. Non va bene e non c'è una spiegazione, non c'è un ritorno. E quando si dice va bene, allora ragioniamo su quello che è la situazione più generale di Milano, la risposta è la situazione più generale di Milano è sucate, perché qua decidiamo solo noi, gli spazi ci sono e cioè non sono fatti per essere dati a chi ne ha bisogno, ma soltanto per le nostre speculazioni. Ovviamente non viene detto così, però io però questo è il messaggio che cioè, dall'altra parte io non riesco a sentire nient'altro. Sento la chiusura, no, e scusa, non c'è nessun motivo. Ma d'altra parte in questa città che spazio c'è per la cultura? Adesso così, a parte quella che non si che, tipo a parte la cultura classica, tipo uno che legge Dante, tasca, eccetera. Il problema è che l'amministrazione di Milano allo stato attuale lega troppo discorsi come cultura o comunque arte a quello che è business. A Milano la parola chiave è business, sempre e comunque. E chi vuole portare cultura, come può essere anche tecnologia o scienza, o comunque arte, o comunque qualcosa di costruttivo alle persone, al di fuori da quelli che sono i canali ufficiali, canali anche soprattutto controllati di Milano, non è accettabile questa cosa, non viene assolutamente accettato. Sì, chiaramente, secondo me qualsiasi forma di cultura che non sia proprio strettamente legata al business o al guadagno di qualcuno è appunto con l'intenzione tagliata, tipo per quanto possa sembrare cultura, non so, tipo la qualche interpretazione lirica, operistica, la Scala, eccetera, è comunque mi sembra più tanto business piuttosto che cultura nel vero senso della parola. Adesso non so se sono d'accordo con me, però se mi diranno no, stronzo, muori. Pausa. The soul, we barricade ourselves in holes on temperament. Le 2:10, Vacia Pai Mouse, Radio passa. Popolare. Sì, sì, il tempo passa. Io ho parlato di... Non è questo. Continua a essere c'è sul cursore giusto. Sul cursore giusto, però lampeggiava in un punto sbagliato. Si vede che quando ti ho detto pesta un po', qualcun altro ha fatto. Guarda, svita il mixer, svita il mixer e portalo reload che vediamo di stare. Sì, in effetti chiediamo se qualcuno è in grado di se c'ha voglia. A reload, oltre a sistemare i mixer e oltre al wireless di cui abbiamo parlato prima, in realtà ci sono, come vi dicevamo, molti altri progetti in ballo, proprio perché Reload non è un internet caffè. E fra i vari progetti, per esempio, possiamo ricordare la volontà di creare una mediateca, cioè uno spazio all'interno del quale possono essere contenuti supporti audio e video e che possono essere condivisi liberamente, scambiati, quindi una base di dati depositati che cresca sulla base dell'organizzazione delle persone che condividono spontaneamente. Ma non solo, all'interno di Reload sono affluiti in realtà persone e gruppi da molti progetti, molti percorsi, tra cui per esempio ci piace ricordare Chainworker, che... Ricordiamo che sono... chi sono? Sono un gruppo che con la sua azione vuole favorire la diffusione di una coscienza sindacale all'interno degli spazi di lavoro, quindi... pur senza costituirsi un soggetto sindacale, in realtà vuole portare coscienza dei diritti, soprattutto al precariato, quindi nelle fasce lavorative dove questo non è arrivato e soprattutto nelle fasce lavorative che sono più deboli, proprio perché sono una novità e quindi non hanno ancora piena coscienza di quello che sono. A questo punto ricordare Mayday è d'obbligo quando si parla di chain workers. Ma non solo, quindi abbiamo parlato di wireless, abbiamo parlato quindi anche di accesso alla rete, per cui uno spazio di navigazione, ma per saper utilizzare bene le tecnologie fondamentale è conoscerle, quindi capirne tutte le potenzialità e saperle sfruttare, e quindi uno degli altri progetti che ci si propone nello spazio di Reload è anche una nutrita programmazione di corsi di alfabetizzazione informatica, di corsi più specialistici per su vari argomenti, di grafica, di suono, di programmazione, e sono tutti corsi che sono improntati sulla partecipazione, quindi sulla condivisione, quindi non sul modello professore in cattedra, e comunque corsi che non vogliono porre vincoli, tra cui neanche quello economico, quindi corsi aperti su sottoscrizione, come sono sempre stati fatti dall'OA. Quindi questa è tutta più o meno la carrellata di progetti, anzi sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa e sicuramente qualcosa ce lo inventeremo domani e domani dopo. Vogliamo ripetere l'indirizzo del sito e lanciare due appuntamenti? Il sito è reload.realityhacking.org e, oppure se volete scrivere reload@autistici.org l'indirizzo di posta. A lui non glielo dici. È cursore, a lui non glielo dici di fare lo spelling, solo a me glielo dici. L'ha già fatto lui. L'ha già fatto. Se volete sperimentare tutte queste attività e capire un po' come siamo fatti, che faccia abbiamo e soprattutto se quello che vi stiamo raccontando è fuffa oppure no, se le facciamo veramente, il primo appuntamento è domani, che in realtà poi sarebbe oggi, visto che sono le 2:15, in via Confalonieri, nello spazio di Reload, quartiere Isola, via Confalonieri numero 3, poi comunque arrivate, ci sono degli striscioni lunghi 8 metri con scritto Reload, è difficile che non vediate il posto, infatti. Lanceremo tutti i nostri progetti in un'iniziativa che presenta tutte le varie attività che vi ho elencato e comunque che vi permetterà di conoscere il gruppo. Scusate. E lasciagli sul cursore. No, non glielo lascio sul cursore, perché fanno dei versacci nel microfono, muovono le carte, mangiano le caramelle. Non ho fatto il segnale convenuto. Qui ci si mette d'accordo e poi dopo. E comunque sia, dicevo, dalle 2 in poi? Dalle 2 in poi, sì. Ci sono una serie di iniziative che saranno, non so, siccome si fa anche radio, modulazione di frequenza. Ecco, vedi cosa mi sono dimenticato, per esempio. Ci sarà il reshow con lo studio radio, lo streaming. Ma appunto, non solo radio in etere, ma anche radio su internet. Parla qua, poi è aperto. Spiega cos'è il reshow. Il reshow sono due biciclette con un piano in mezzo e la radio è la roba che fa di tu, tipo questa che state sentendo, tipo questa qui che stanno sentendo, in pratica, cioè, l'idea è quella di avere un mezzo non a carburante, quindi eco solidale, per così dire. Ma quindi alla fine siamo dei net ecologist. Mamma mia. Sì, e comunque sia un mezzo che abbia anche l'agilità di riuscire a portare il messaggio che noi vogliamo lanciare da Reload nella radio di chi ci vuole ascoltare, sarà su 98 MHz, sì, FM. E perché non dobbiamo coprire Radio Popolare? Sì, bene, poi... è stato bello, io adesso vi spengo i microfoni d'ufficio e vi insulto in diretta, così, proprio giusto perché sono simpatica. E dicevo, ci sarà questo, ci sarà l'idea, c'è l'idea di mettere su un appunto di navigazione, un totem di navigazione in mezzo al parco, in wireless. Sì, Tixo, piangi perché tu sai chi si è preso questo impegno. E c'è, ci sarà un noi domani distribuiremo una serie di flyerini con il numero telefonico da chiamare per parlare di quella che è la situazione delle politiche sociali a Milano rispetto agli spazi, e magari ve lo diamo più tardi nell'arco della serata, visto che adesso qua non ce l'ha nessuno, inutile far finta. Questo non è bello, infatti. Siamo dei cialtroni. Vabbè, insomma, lo sta bene. Queste sono dirlo, alcune però. Delle cose che ci saranno domani, ce ne sono anche altre, però chi passa dal quartiere Isola dalle due in poi, magari... Se le scopre tutte in prima persona, così lasciamo un po' di... Poi lascio a Tixo invece il secondo appuntamento, così mi faccio i cazzi miei, mi sto zitto. Ah, così proprio. Sì, sì. Hai capito? Fa l'intervento e poi mi sbologna. E poi ti sbologna. Non ha un minimo. È bello avere degli amici. E poi sorride fuori microfono. E poi non si può neanche menare. Perché se ti dà una sberla lui ti dispa, insomma, diciamocelo. Fa 40 centimetri in più d'altezza e quindi ha sempre insomma, ragione. Ma come dire. Invece il secondo appuntamento è per giovedì di settimana prossima ed è un appuntamento invece aperto, un appuntamento per costruire un momento di discussione, di dialogo sulle tematiche non tecnologiche che stiamo affrontando con la nostra esperienza di occupazione, per cui, come dicevamo prima, la possibilità di avere degli spazi per portare avanti le politiche giovanili, quindi anche come il comune si rapporta a questo, quali sono le politiche che arrivano dalle istituzioni e soprattutto qual è la situazione in cui si trovano le realtà auto-organizzate, autogestite, che pur producendo, quindi pur essendo in realtà il motore propulsore di questa città, alla fine in realtà vengono penalizzate proprio perché sono contrarie allo show business e quindi non possono passare. Per cui per giovedì prossimo un'iniziativa allargata, un momento di discussione promosso da Reload. Però More info sul sito perché non è ancora definito ma stiamo lanciando, siamo chi anche... dove come quando, sì, esatto. è in fase di costruzione, certo. anche perché bisogna capire quanto duriamo, per esempio questo influenza la logistica, è così un po' inquietante, è messa così un po' inquietante, insomma. Va bene, quindi direi così, mandiamo un pezzo e poi possiamo anche cambiare argomento. Io direi di sì. Va bene, pezzo non è... songs. We heard them all before. You're telling me it's unpatriotic, but I call it when I see it. When I see it's idiotic. The tears of one mother are the same as any other. Drop food on the kids while you're murdering their fathers. But don't bother, just show it on CNN. Brothers and sisters, don't believe them that it's a war against evil. It's really just revenge engaged on the poorest by the same rich men. Fight terrorists wherever they be found. But why you not bombing Tim McVeigh's hometown? You can say what you want. But all bombing is terrorism. Chase down are your enemies. We can bring them to their knees. We can bomb the world to pieces. But we can't bomb it into peace. Oh, we may even find a solution. And disease, we can bomb the world to pieces, but we can't bomb it into peace. 9-1-1, 5. fire in disguise. Many people died, no one even really knows why. They sold lies in the vision of fear. We yelled and cried, no one listened for years. We're like, who put us here? And who's responsible? Well, there's no debating, cause if they ask me, I'll say it's big corporations. World Trade Organization, trilateral action, international sanctions. Satan, seems like it'll be an endless price tag of wars, tremendous. And most disturbingly, the death toll is so horrendous. So I send this to those that say to defend us. Send us into harm's way, we should all make a remembrance that this is bigger than terrorism. Blood is blood is blood in them. Love is true vision. Who will listen? How many songs it takes for you to see? You can bomb the world to pieces, you can't bomb it into peace. We can take down all our enemies. We can bring them to their knees. We can bomb the world to pieces. But we can't bomb it into peace. Whoa, we may even find a solution to hunger and disease. We can bomb the world into pieces, but we can't bomb it into peace. I say power to the people, and I say love. As my jeans, Bobby thumbed a diesel down just before it rained. That rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana, and I was playing soft while Bobby sang the blues. Yeah, windshield wipers slapping time eyes, holding Bobby's hand in mine, we sang every song that Daddy knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, and feeling good was easy, Lord. Bobby sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mines to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather and through everything that we've done, so Bobby, baby, he kept me from the cold. One day up near Salinas, Nord, I let him slip away. But he was looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday. to be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Feeling good was easy, Lord. Bobby sang the blues. I said feeling good was good enough for me. Mm-hmm. It's good enough for me and my Bobby McGee. La da da, la da la da. La da da da da da da, la da da da da da da da, Bobby McGee. La da da la la da da, la da da da da da da, la da da da da da da da da, Bobby McGee. La da da da da da da da, la da da na na na na na na na na na na na na na na, Bobby McGee. La na na na na na na na na na na na na na na na na na. Hey, na Bobby, la na Bobby McGee, yeah. Hey, I call him my lover, I call him my man. I said I call him my lover, I do the best I can. I said, now, come on, Bobby, Lord, come on, Bobby McGee, yeah. In most every cubicle monkey's life, there is a person or team of people who do the jobs no one else dares to even try to understand. They are our alpha geeks, our nerd buddies, our system administrators. And it is they who truly control your life. It is to them that you must bow down and admit your ignorance every time you do something stupid on your computer. You are right to fear them, for they can destroy every file on your computer just by leaving it alone with you for the long weekend. They are the dark lords of the IT industry, invincible in their knowledge of the intricacies of NT networking protocols and cross-platform file recovery methods. Some of them even have girlfriends. They control the information technology industry, and they still want more. Friday, July 26th has been designated System Administrator Day by the dark cabal that controls everything. You are encouraged to buy them lunches or install home theater systems in their offices. They humiliate you when you forget your password, and now they want an appreciation day. Well, I, for one, say, let's give it to them. It's not like we have a choice. There's a guy who works in another room or on another floor. He's the one you call when your document ain't there no more. He's probably a boy, but he might be a girl or something in between. He's the only one in the building who knows what PC load letter means. He's your system administrator. He probably reads comic books, and you tremble in fear when you have to hear one of his what a dummy looks. Got a virus, lost your password, or you just can't print. In an hour he'll show up and then he'll crouch and squint. Fight to save your files, he might be there all day, but sometimes he just presses caps lock and then he walks away. But hey, suddenly my password works. Happy Sysadmin Day, gonna buy my guy a gift to say. Having you around means I get to stay stupid and uninformed, and I can keep opening .exe email attachments and forgetting my mother's maiden name, and I can keep naming files with spaces and ampersands and colons, cause you'll fix it all for me. I'll give you a cake, I'll give you a hug, I'll buy the world's best system administrator mug. Just help me out, system administrator. Delete my recently viewed websites file. Restore my network settings so I can find my F drive. Plug in my mouse. Piss him off, and you'll be fired by tomorrow morn. Cause he's the guy who knows that you were surfing porn. So July 26th, make sure you get a present for your system administrator. 22:32, Radio Popolare va a Chapai Mouse. Abbiamo detto che avremmo cambiato argomento e quindi cambiamo voce narrante, tanto per cominciare. E la voce narrante ci spiega l'argomento, perché non ce l'ha mica detto qual è questo argomento. Bu, la voce narrante. Ah, bu, è bu, cioè esatto, così era un gioco. Quello. Esatto. La voce narrante, oggi come oggi, vi vorrebbe parlare di uno degli eventi, diciamo, che ha più tenuto occupato le discussioni della comunità internet dell'ultimo mese. Sicuramente una questione abbastanza controversa che magari non ha toccato chi utilizza normalmente internet da vicino in maniera così diretta, ma ha rappresentato, diciamo, una questione molto molto importante per quanto riguarda lo sviluppo e le politiche di sviluppo della rete nei prossimi anni. Stiamo parlando dell'affare VeriSign, come viene ormai definito. Minchia, Zest, tipo Watergate, hai capito? Proprio. Comunque ti devo smentire su un fatto. Questa cosa qua me l'hanno raccontata anche persone non addette ai lavori. Ah sì? Ho detto, sai che ho scoperto che è successa questa cosa qua? Beh, questo è buono. Certo, è VeriSign che ha fatto questo è stato molto bello, perché questo è molto bello perché vuol dire che allora c'è maggior consapevolezza di quello che viene in rete da parte di chi la usa. Beh, ci hai incuriositi adesso. Spiega cosa è successo. Allora, prima di tutto, chi è, chi sono, cosa fanno la VeriSign? La VeriSign è un'azienda, né più né meno, un'azienda che si occupa di consulenze informatiche, della studio e progettazione di infrastrutture informatiche, soprattutto legate alla sicurezza, alla crittografia, eccetera, eccetera. È legata a un... Non sono come degli antivirus. Non strettamente. La VeriSign è quella che, diciamo, che si occupa, ad esempio, della struttura dei certificati SSL per internet, per i siti sicuri, esatto, chiavi, diciamo, chiavi elettronica, autenticazione, esatto, diciamo strumenti di sicurezza legati all'autenticazione e alla crittografia dei dati in internet. È un'azienda molto nota e molto famosa. In particolare si propone come un'authority, cioè certo, se VeriSign ti dice questi sono chi ti stanno dicendo di essere, tu mi devi, esatto, credere. Esatto, VeriSign fondamentalmente è un'authority che fornisce certificati. I certificati sono quegli strumenti crittografici con cui tu, a proprietà di un sito, autentichi realmente chi sei. E VeriSign è appunto un'authority, qualcuno che certifica altri siti dicendo questi sono siti sicuri, perché appunto utilizzano le strutture crittografiche VeriSign, e perché noi attraverso i certificati siamo in grado di certificare che loro sono chi dicono di essere. Che garantisce l'identità della gente, esatto, fondamentalmente, esatto, dei siti o anche dei, immagino, dei privati, dei singoli. Volendo, sì, se hai soldi per pagarli, sì. E che ha fatto? Ecco, la VeriSign, oltre a essere questa azienda, svolge anche una funzione abbastanza importante in internet. È il maintainer dei domini di primo livello .net e .com. Cosa vuol dire oggi questo? Esatto, infatti, appunto, traduciamo, neanche io che ci lavoro nel campo. Traduciamo dall'arabo internettese per le persone, no, che parlano l'italiano. Quando una persona normale va a visitare un sito, mette nel suo browser, che sia Internet Explorer o Netscape, un indirizzo web. Questo indirizzo web, che può essere www.cippalaminchia.com, ah, l'ho visto, Conte. No, noto sito, spacca, viene, questo cosa fa il proprio computer? Non fa altro che risolvere questo nome. L'operazione risolvere un nome in cosa consiste? Il computer, il tuo computer di casa, quando metti dentro questo indirizzo web, chiede a un altro computer che sta in internet, un server DNS, chiede di risolvere il nome che tu hai messo. Aspetta, in un IP pubblico, in un numero identificativo. Vediamo un po', se riesci a aiutarmi ad essere più chiaro. Se ci sono arrivato anche io. Nel senso che l'idea è questa, che i computer, siccome sono delle fottute macchine, loro, esatto, lavorano con i numeri. Esattamente. E noi che invece non siamo delle macchine schifose, lavoriamo con i nomi. Esatto, esatto. Però siccome noi lavoriamo con i nomi e loro con i numeri, c'è bisogno di un traduttore, che è questo, esatto, server DNS, esatto, questo signor DNS esterno. Esatto. Il famoso signor DNS. È il discorso un po' degli elenchi telefonici. Tu vai a cercare, hai bisogno di parlare con uno, sai nome e cognome, all'indirizzo telefonico, chiedi, vai a cercare, consultare l'indirizzo telefonico per sapere quale numero di telefono è associato a quel nome e quindi poterlo contattare. Geniale. Il minchia che paragoni. E non sembra, ma Zaest ogni tanto stasera sono stupefatto, in ogni senso proprio. Effetti speciali, proprio effetti speciali. Ecco, in pratica è quello, l'operazione che viene normalmente quando si surfa internet, quando si visita i siti web, si mette www.qualchecosa.com, questo nome identificativo univoco facilmente ricordabile da una persona perché è un qualcosa, un nominativo, è mnemonico. Mnemonico, diciamo, viene tradotto in un numero identificativo di quel computer in internet e quindi il nostro browser si può connettere direttamente al numero identificativo e andare su quel sito. Vabbè, e che minchia c'entra la VeriSign? La VeriSign, questa infrastruttura che è preposta a tradurre i nomi, gli indirizzi web in numeri, è un'infrastruttura molto complessa e è molto capillare, che si diffonde in tutto il mondo, perché i server fra di loro che sono preposti a questa operazione attraverso una serie complessa di regole si scambiano fra di loro le informazioni. Se io chiedo il numero di telefono di una determinata persona al mio server, lui non la sa, lo chiede al server vicino che lo chiede a quello dopo, eccetera eccetera. È tipo che se, come se volessi sapere il numero di un mio amico a New York, non lo trovo sull'elenco di Milano, chiamo però a New York e dico oh, esatto, tu chiami il 12, vuoi sapere il numero di questa persona, loro non lo sanno perché è un numero italiano, però lo chiedono al centralino americano che guarda nel loro database, lo scopre e lo dà al centralino italiano che te lo passa. Ok. Ecco, per la gestione della risoluzione dei nomi, quindi per il passaggio appunto da indirizzo a numero identificativo del server, viene utilizzata questa struttura estremamente complessa. Questa struttura deve essere gestita, deve essere mantenuta. Esistono dei server a livello mondiale che vengono che gestiscono quelli che sono i domini di alto livello, cioè tutti i .com, tutti i siti che finiscono con .com, quindi tutti i siti diciamo che dovrebbe essere carattere commerciale, e tutti quelli che finiscono con il suffisso .net, quindi relativi comunque ai servizi di rete, sono gestiti dal punto di vista organizzativo da questa azienda VeriSign, che è un grosso potere, diciamo che è una, prima di tutto dovrebbe essere una grossa responsabilità. Questa azienda si è accollata la responsabilità di gestire per conto di tutta la comunità internet questi due domini di alto livello, che sono i .com e i .net, quindi gestirli dal punto di vista della registrazione dei domini, dal punto di vista della manutenzione, quindi anche sui server della rete DNS, eccetera eccetera. Quindi questa azienda dice: io offro, anche per prestigio personale, un servizio estremamente importante alla comunità di internet. Tu dici per prestigio personale, sicuramente è una responsabilità, però esatto. C'è anche da dire che offrire questo tipo di servizio colloca questa azienda anche in una posizione di enorme vantaggio. Diciamo che chi ha in gestione comunque domini di alto livello, quindi i domini così estesi come questi, potrebbe sfruttarli a proprio vantaggio. Dal punto di vista commerciale naturalmente è una cosa che un'azienda che si accolla questa responsabilità non dovrebbe fare, però guarda un po', è successo proprio questo, ovvero finalmente la parte su cuore. Esatto. Cosa è successo? È successo che a un certo punto questa azienda VeriSign, dicendo offriamo un nuovo servizio alla comunità internet, che la comunità internet manco per la pippa ci aveva in mente di chiedergli, ha deciso di fare una modifica sui server. Per pura beneficenza. Sicuramente non lo chiedevano tutti a gran voce. Poi, non so, mica solo la comunità, anche tutti i dipendenti della VeriSign lo volevano. Assolutamente. I dirigenti spingevano di brutto, hai capito? Cioè, delle iene, cazzo, lo vogliamo. Per il bene della gente, ovviamente. Facciamo del bene alla gente, all'urlo di facciamo del bene alla gente, questa azienda non ha fatto altro che fare una modifica sui server. Massimi, diciamo, che saranno in cima alla piramide di strutture che gestisce appunto i domini DNS. Che hanno fatto? Hanno semplicemente fatto una modifica, si chiamano aggiunto una wild card in termine tecnico. Una carta selvaggia. Una carta selvaggia, esatto. Hanno aggiunto praticamente, hanno fatto una modifica a questi server in maniera tale che quando un dominio, prima cosa succedeva? Tu mettevi dentro un indirizzo di un sito web sbagliato. Tipo chiedevi al tuo centralino yahoo.com, esatto, chiedevi al tuo centralino Telecom il numero di telefono di una persona che non esisteva perché hai sbagliato il nome. Il centralino controllava e ti diceva no, guarda, hai sbagliato nome, proprio non c'è nessuno che si chiama così. tu consapevole che lei delle è nuove, ubriaco, esatto, e lei è ubriaco, okay, oppure si è fatto una canna, oppure ancora peggio un centro socialino che si è fatto una canna, allora le mando la polizia a casa. Cazzo, non chiederò più informazioni al 12. No, no, perché guarda, per carità. E questo facevano i server DNS, mettevi dentro un indirizzo di un sito web sbagliato, magari semplicemente avevi sbagliato una lettera rispetto al nome reale, e il DNS non riusciva a risolverlo, ti diceva è sbagliato, il tuo browser appariva una bella pagina che ti diceva dominio inesistente, guarda, hai sbagliato, riprova. VeriSign, cioè, normale, quello che uno si certo, aspetta, se la cosa è sbagliata uno ti dice guarda non funziona, esatto, riprova, sarai riprova, più fortunato, sarai più fortunato. Non c'è quello che cerchi, magari hai sbagliato come a chiedere quello che cercavi, la vignetta di Mauro sul Papa. VeriSign ha fatto una modifica ai server per cui per qualunque dominio che tu mettevi che non esisteva, cioè qualunque indirizzo che non poteva essere risolto, qualunque nominativo di persona che non esisteva tra virgolette, che chiedevi al centralino Telecom sempre per usare lo stesso paragone, non ti rispondeva, guarda, è sbagliato, non esiste. Ti rimandava al loro sito, a un loro motore di ricerca sul loro sito. Oh. Cioè, tipo tu chiamavi la Telecom e gli dicevi, guardi, sto cercando il numero di telefono della persona Pinco Palla. Loro controllavano e ti davano un numero di telefono, non ti dicevano, no, guardi, non esiste. Ti davano un numero di telefono di un'altra azienda. Che ti diceva, guarda, il numero di telefono... Stai cercando Pinco Palla? Non esiste, però ti vendiamo i nostri prodotti se vuoi, ma... Come? E quindi qui c'è il dolo in sostanza. Esatto, qui c'è il dolo, ovvero qui c'è lo sfruttamento da parte di un'azienda che si è assunta la responsabilità di gestire una parte importante di internet, lo sfruttamento a propri interessi e a fini commerciali di queste, dei poteri che gli venivano dati insieme a queste responsabilità. La questione non è così semplice e non ha avuto un impatto così banale come il semplice fatto che l'utente internet prima batteva un indirizzo che non esisteva e gli ritornava una pagina di errore che diceva non esiste questo sito, ma chi naviga in internet si è accorto che quando sbagliava indirizzo veniva mandato su un motore di ricerca appunto del sito della VeriSign, che si faceva tanto in pubblicità e ti diceva ti aiutiamo noi a cercare. Un dettaglio per chi non è addentro al mondo, questo mondo di internet funziona sui contatti, cioè sul numero di persone, esatto, che vengono a visitarti, diciamo che più è grande questo numero più è grande il tuo potere commerciale. Esatto. Si dice che in una trasmissione televisiva tu puoi vendere gli spazi pubblicitari a un tot prezzo in base a quanto share, in base a quanto audience ha la tua trasmissione. La stessa cosa avviene in internet. Se un tuo sito ha tanti contatti giornalmente, viene visitato da tante persone, un banner pubblicitario, uno spazio pubblicitario sul tuo sito costerà tot. Se il tuo sito viene visitato da 10-100 volte tanto le persone, è ovviamente che tu puoi vendere il tuo spazio pubblicitario sul sito a un prezzo molto più alto. Voi pensate un'azienda il cui sito viene visitato da chiunque sbagli semplicemente a digitare un sito. È ovvio che un banner pubblicitario, uno spazio pubblicitario su una pagina del genere che riceve un numero impressionante di contatti anche solo per puro errore varrà molto di più. Io ricordo a proposito che era così tanto visitata, perché ovviamente anche io sbaglio spesso, nel senso non sono così attento delle volte, e veniva visitato così tante volte che delle volte ti ritornava in effetti il problema, una pagina di errore tipo pagina non ricevuta, ma solo perché, esatto, il loro sito era intasato da richieste. Certo, perché questa cosa, il sito era talmente visitato a causa appunto degli errori, tutte le persone sulla faccia della terra che sbagliavano a digitare l'indirizzo di un .com o un .net finivano sul loro sito, quindi ovviamente la pagina è stata sovraccaricata e questo dà anche l'idea dell'impatto di pubblicità loro che hanno ricevuto. Il problema però non è stato solo questo, è stato che loro hanno fatto sostanzialmente una modifica illecita a quella che è una delle più importanti infrastrutture di gestione della rete. Questo ha provocato tantissimi guai, tantissimi problemi. Ad esempio, i software che vengono preposti a filtrare la posta, quei software che servono a tagliare lo spam, a proteggerti dalla spam posta, sono la posta indesiderata, esatto, dalla posta indesiderata e chiamata pubblicitaria, si basavano appunto su un controllo dei domini per verificare che i domini di provenienza di una determinata mail esistessero davvero, no, visto che gli spammer, traduzione, esatto, come dire che siccome io sono lo sbirro, allora tu arrivi, io ti fermo, ti controllo i documenti, chiamo la centrale, no? E dico, ma il signor Tizio e Caio, esiste questa patente valida? Esatto. ovviamente prima quello che succedeva era che se questa patente non era giusta, mi veniva risposto dominio non esistente, no, questa persona non esiste. Invece con questa modifica tutti risultavano validi, esatto, per così, esatto, dire, perché era la VeriSign che rispondeva e quindi valeva tutto, no? Scombinato la sicurezza. Diciamo che questi software, appunto, per verificare se era posta veramente legittima, opposta ai pubblicità invasive non richiesta, una di controlli che facevano, appunto, controllare che l'indirizzo da cui provenisse fosse un indirizzo legittimo o meno. Se gli veniva ritornato della struttura dei DNS, guarda che questo indirizzo proprio non esiste, questo dominio proprio non esiste, loro già la rilevavano come posta spam, mm-hmm, e quindi posta non richiesta. Ovviamente da quando VeriSign ha fatto questa modifica, la risposta che questi software proposti a controllare la posta ricevevano era: ah no, questo dominio esiste. Poi non ti dicevano che era della VeriSign, ti dicevano semplicemente questo dominio esiste. E quindi questo ingannava i software atti a tutelare la gente dallo spam. Tanti altri, qualunque comunque software o struttura di rete che basasse una serie di controlli sulla veridicità o meno dei domini, furono ingannati da questa modifica della VeriSign. Quindi questo fu un grosso problema che causò tanti guai in rete, anche le infrastrutture, magari non sempre direttamente visibili. Quando è che è successo? Questo, la VeriSign ha posto ormai un mese fa, circa un mese, una settimana fa se non erro esattamente, questa modifica. La trafila è stata lunga e complessa, ma come risultato è stato, alla fine la VeriSign ha ceduto le armi e ha tolto questa modifica, a seguito anche di minacce di azioni legali da parte di tantissime organizzazioni che si occupano della infrastruttura di gestione di internet. Quindi adesso si è tornati alla situazione precedente. Sì, una settimana fa circa la VeriSign ha tolto la modifica su pressioni e minacce anche di azioni legali da parte degli enti che gestiscono, degli enti superiori che gestiscono internet, l'INCAN che si occupa della gestione totale dei domini appunto di internet, l'IETF che è l'Internet Engineering Task Force è l'ente che si occupa di definire gli standard dei protocolli di comunicazione di internet, e lo IAB, che invece è un altro ente, diciamo, di luminari di internet. Ma soprattutto quello che ha pesato è stato l'opinione pubblica, sicuramente, fortissima. La massa degli utenti. La massa degli utenti che ha protestato tantissimo. La VeriSign ancora se la gioca su loro sono vittime, che gli utenti in realtà gli hanno appoggiati. È una palla totale, la gente gli voleva, ha minacciato di uccidere sul posto. Sì, sì, si possono trovare. Ah, scusami, dove? No, ci sono stati anche a un certo punto, visto che il gioco di VeriSign era quello, certi utenti burloni che hanno cercato di sovraccaricare a questo punto le richieste al database, facendo richieste farlocche, giusto per... Se lo meritano. No, no, se la sono cercata. Le proteste sono state tantissime e molte, diciamo, che prendevano spunto dal nostrano net strike, tra virgolette. E quindi, comunque, a seguito di tutte queste pressioni, VeriSign ha ceduto le armi, lasciando comunque nella storia di internet un precedente abbastanza pericoloso su quanto si possano essere, su come possono essere abusati i poteri di chi gestisce la rete. Per fare capire esattamente come questa cosa si configuri, il fatto di poter inserire delle wildcard per risolvere qualsiasi nome non previsto non è una cosa che si è inventata VeriSign, è una cosa che è prevista da tutti i software che fungono da server DNS. Ma lo scopo per cui è stata inventata questa cosa era perché un soggetto che ha un dominio di almeno secondo livello, può essere IBM piuttosto che autistici, piuttosto che qualsiasi altro, se vuole dire all'interno del mio dominio, quindi in una cerchia piuttosto ristretta, voglio che qualsiasi nome venga risolto, perché parlo di tutte le macchine nella mia rete, io ci posso mettere questa cosa. Quindi in realtà era pensato su piccole zone di interesse. Invece VeriSign ha fatto qualcosa che riguarda una fetta enorme di internet, non so se può essere quantificato nel 30, nel 50%, i siti .com e .net sono la maggior parte dei siti commerciali e di larga diffusione, soprattutto internazionale. Quindi quello che loro hanno fatto è stato utilizzare maliziosamente una caratteristica che era pensata per un uso comodo di soggetti al loro interno, di aziende al loro interno, di gruppi al loro interno, per trarne un profitto che derivava da un uso scorretto, non previsto, di una tecnologia pensata per altri scopi. Dicevo, una domanda così per dare, cioè per chi ha voglia di approfondimenti, chiudere in bellezza, ci sono dove trovare notizie? Allora, notizie su questa questione possono essere trovate innanzitutto, vabbè, se avete voglia di fare un po' i bulloni anche voi, il sito della VeriSign, www.verisign.com. ma sicuramente e così entrerete nel loro database, esatto, per sempre. Un'altra cosa, sicuramente la questione è stata seguita appunto da questi enti che sono preposti alla la manutenzione, alla gestione di internet tra virgolette, che sono www.etf.org, sulle cui mailing list si è svolta molta della battaglia che è avvenuta attorno a questa questione, www.yab.org. E beh, un'altra comunità di internet molto importante in cui che ha seguito molto la questione, postando tra l'altro informazioni, dati eccetera, è sicuramente quella di slashdot.org, una nota diciamo comunità di cittadini della rete. Ecco, l'unico dato, l'ultimo dato che vorrei rilevare è che comunque questa questione della VSN ha aperto un barattolo di vermi, come si dice, che abbastanza schifo. Esatto, esatto. È una questione che nessuno voleva affrontare, ovvero il rapporto fra enti economici, aziende private, e gli enti che gestiscono le reti. Yeah. Ovvero internet è un bene mondiale, è uno strumento che viene ormai comincia sempre più a essere considerato un diritto, il cui accesso a internet è considerato un diritto. E il fatto che parte di questa gestione, parte della gestione di questo enorme strumento, di questa enorme struttura sia in mano a enti privati economici, che quindi hanno interessi economici all'interno della rete, è una, diciamo, questo può essere una contraddizione, può essere pericoloso. Questo evento, questo episodio della Verisign ha portato alla luce in maniera estremamente lampante questa questione, e stanno scoppiando adesso un po' di polemiche, fra le quali appunto il discorso: chi deve gestire i domini, la struttura DNS, i domini di alto livello? Posso farlo un po' vetero? Vai. Posso ricordare? Vai. Così chiudiamo in bellezza vetero. E chi controlla il controllore? No. Adesso mettiamo un pezzo di musica, perché sono morti fuori, anche quelli che hanno resistito finora. Ammazzatelo. We'll be right back. 3:02, no, le 3, sono proprio le 3, sono scattate le 3 adesso. Dacia Pay Mouse, Radio Popolare. Grande Odo che con uno scatto felino è riuscito a coprire la distanza finale senza farsi sgamare. Senza fare rumore. Grande. Perché non stavo guardando, però stavo sentendo e giuro non ho sentito rumore stavolta. Fantastic. Vabbè, io penso che emenderò il mio slogan vetero tirato fuori dal cilindro di prima. Spiegando qual era il concetto dietro, come spiegava Zeiss prima nell'illustrare cosa ha fatto VeriSign, ci sono degli organismi all'interno della rete che hanno grosse responsabilità e quindi anche grosse posizioni di potere. Nel momento in cui si affida a una struttura, a un'azienda, queste grosse fette di potere, perché ci si fida del fatto che le gestiranno nell'interesse comune, si fa un grosso atto di fiducia. Nel momento in cui questa fiducia dovesse venire a mancare, perché per esempio VeriSign si è comportato in questo modo, cosa si può fare? Sparare a VeriSign. Su tanti, così, con un fucile a pompa, naturalmente. No, la testa di cavallo, così la prossima volta. Ah, così, la testa di cavallo. Grande. Sì. Gli mettiamo, non so, un hard disk sezionato. Lo zucchero. Nel letto. No, il sale del caffè, come diceva il tuo amico napoletano. Il peperoncino, no. Il sale, era sale. Temo che tutto questo non risolva. No, e dici? Dacci la tua soluzione. Ok, arriva la soluzione. Ci sono stati già da molti anni tentativi di strutturare il DNS in maniera alternativa. In realtà va detto che per come è pensato il DNS è un ottimo sistema, è stato studiato nei minimi dettagli per ottenere il massimo livello di flessibilità e il risultato migliore col minor carico possibile per la rete. Quindi sicuramente è un buon sistema. Il problema è che non funziona quando oltre ai computer e ai protocolli entrano in gioco gli interessi economici e il fattore umano. Quindi il problema sostanzialmente perché è cercare umano, davvero c'è cioè il fattore economico perché il fattore umano alla fine, nel senso, io mi sento adesso, scusa se devi un attimo, vai mi sentirei anche di giustificare, non so, una situazione, se non so, qualche abitante dello Zaire o qualche organizzazione dello Zaire, dico lo Zaire perché non so, era lo Zaire dove c'era tempo fa questo problema della produzione delle medicine contro l'AIDS, cioè che vive una vessazione economico-politica e trova questa maniera di far uscire il problema in qualche maniera, come dire, cooptando l'attenzione di chi naviga su internet. Ma insomma, io alla fine potrei anche capirlo. Invece non riesco ad accettare il fatto che un servizio che ti ritorna molto in termini di visibilità e qualità, prestigio aziendale, tu poi lo vuoi massimizzare a danno di tutti quanti, nel senso che appunto ci sono anche dei servizi, come diceva Zeiss prima, cioè non è esattamente la situazione che è avvenuta con la VeriSign. Comunque, quindi sono d'accordo che d'altro canto non facciamo finta di nulla, per agganciarci ancora a quello che diceva Zeiss prima, internet è un ibrido di situazioni commerciali e no profit e governative, quindi è un rischio concreto che questa situazione VeriSign sia effettivamente la prima di una escalation di problemi simili. a onor del vero faccio un'unica cosa. La Verisign non è stata la prima a fare questa cosa. Altre piccole aziende hanno fatto questa operazione su piccoli domini regionali. Il problema è che fino a quando un'azienda di Salamadonna, quale angolo di mondo, ha fatto la stessa cosa col dominio regionale VS, nessuno ha notato differenza. Quando Verisign l'ha fatta con due dei massimi, più diffusi e più estesi domini sulla faccia della terra, .net e .com, l'impatto è stato micidiale e il problema di appunto l'interazione della parte governativa, la parte no profit, la parte economica e chi vive la rete, questa è scoppiato in tutta la sua, in tutte le sue problematiche. Sì. Purtroppo sì, a onor del vero una cosa del genere era già successa nel 96, nel senso che un'aziendina molto molto piccola che si chiamava Alternic, al posto di Internic, che era quella che faceva il lavoro di Verisign, l'aveva fatto per un giorno, però di quell'azienda lì non si sa più nulla a distanza di anni. In questo caso, come mai? la testa di cavallo, lo zucchero. E mentre in questo caso Verisign, che come attività principale ha quello di garantire l'identità nel web, il suo business principale è quello, ha comunque una posizione di forza per la quale insomma la cosa è passata non inosservata, ma si è dovuto chiudere un occhio per ragioni differenti. Per cui i tentativi di sviluppare dei sistemi alternativi che non soffrissero di questi problemi ci sono stati, mentre altri tentativi invece puntavano molto più basso come profilo, cioè semplicemente cercavano di dare dei domini alternativi, quindi non i soliti .com, .gov o i domini nazionali come il .it, creandone di nuovi a prezzi dimezzati, quindi semplicemente per vincere sulla concorrenza e quindi tirare denaro al proprio mulino. Tutti questi sistemi però sono fallimentari in partenza, perché creano delle situazioni di nicchia. Una delle soluzioni che ricordo, per esempio, era stata sviluppata, prevedeva lo scaricamento di un plugin, cioè di un'aggiunta di software per il proprio browser, il programma di navigazione, che andava installato all'interno del browser, in maniera che questo, prima di chiedere un DNS ufficiale, facesse una query ai DNS alternativi. Facesse una che? Sì, una query, una richiesta di risoluzione. Ok. Cioè, secondo me, per fare un esempio, prima di chiedere al centralino della Telecom c'erano altre centraline alternative di organizzazioni no profit a cui poteva chiedere. Se loro non lo sapevano, chiedeva alla centralina ufficiale Telecom. Non era mica tanto no profit alla fine, eh? Era un centralino. Erano le pagine bianche. C'è da dire questo, per spiegare come mai questi interventi possono essere più o meno fallimentari, che l'organizzazione di cui si parlava prima, insomma l'organizzazione della risoluzione dei nomi, è fortemente gerarchica, ovvero di solito il nome si guarda da destra a sinistra ed è diviso dai punti, quindi se voi scrivete www.qualcosa.com, la prima cosa che si fa è capire chi è .com. .com ti dice chi è qualcosa e qualcosa ti dice chi è www, quindi www è il nome del computer di fatto, diciamo. Sostanzialmente sì. E la seconda parte è il nome della rete, per così dire, e la terza parte è la definizione internazionale, perciò si va prima sui server internazionali, si capisce chi può dare informazioni ulteriori, si va sulla rete e poi si va sul computer, e a quel punto si può accedere al servizio. Perciò se non si interviene su quella che è proprio la parte di progettazione di questo sistema, che è gerarchico in partenza, è difficile, perché chi ha le chiavi di questa gerarchia ha le chiavi del potere sulla risoluzione dei nomi. È un po' come distinguere fra prefisso nazionale, prefisso di una città e il numero di telefono del singolo. C'è il numero di codice postale. È come dire che la Verisign aveva il controllo dei prefissi nazionali delle due più grosse nazioni sulla faccia della terra, e che quindi poteva gestire. È un ottimo paragone questo. Poteva gestire quindi tutta la numerazione. Stasera continui a stupirmi, guarda. Io sono. Fra metafore e paragoni, proprio stasera. Non mi sono neanche drogato. Hai pestato la testa, però, arrivando qui, insomma, e questo ha annullato la caduta del seggiolone di quando eri piccolo. Esatto. Ok. Dove voglio andare a parare? Esiste un progetto che è in piedi da un paio di anni, che si chiama Domain Name Anarchy, che è un progetto che punta a proporre una soluzione che prenda i benefici e i pregi delle soluzioni che sono state tentate e che poi non si sono affermate, e comunque mantenga anche i pregi del DNS attuale. Vi do da subito l'indirizzo, è www.autistici.org/DNA. Il sistema si basa sostanzialmente sulla costruzione di una rete che sia parallela a quella dei DNS ufficiali e che quindi non punti a sostituirli, ma punti a integrarsi su questa rete, per cui garantendo la completa compatibilità con la rete e quindi la completa risoluzione di tutti i domini che già esistono, aggiunga la possibilità di creare dei nuovi domini, quindi ovviamente con dei suffissi differenti, senza però richiedere oneri di costo, senza richiedere dati anagrafici della persona che registra, soprattutto senza essere soggetta ai problemi come la verticalità, la schiavitù dalle azioni prese verticisticamente da un soggetto come VeriSign o da altri che gestiscono dei domini di primo livello, quindi .com. Quindi punta a creare questa cosa. Il lavoro è iniziato da 2 anni ed è ancora uno stato abbastanza embrionale. Perché sei pigro, dillo. Perché sono pigro, in realtà no, c'è un gruppo di sviluppo che è formato da alcune decine di persone, poi non tutti sono attivissimi sulla cosa, però è stato anche presentato già all'EC Meeting di quest'anno, con un seminario piuttosto seguito, e i lavori sono ricominciati. Scusa, tra l'altro, se non ricordo male, nella mailing list che viene usata per il coordinamento dello sviluppo di DNA, ho cominciato a vedere parecchie mail in inglese e anche... Sì, arrivano anche contatti dall'estero di persone che vedono il sito, si interessano, infatti dovremmo provvedere una traduzione. Tra l'altro, per fare capire che in realtà è un progetto che ha riscosso interesse in vari punti, una delle persone che ha manifestato interesse, si è iscritto in lista e sta lavorando allo sviluppo, è una, non facciamo nomi, però è una persona che fa parte della Naming Authority italiana, cioè dell'autorità che è stata delegata alla gestione dei domini.it, quindi comunque una persona che queste cose le conosce bene perché lavora all'interno della struttura del DNS per quanto riguarda la sfera italiana. Quindi vediamo un po', la parte anarchy sostanzialmente è la risposta a quello che al problema che ponevo prima. In pratica, in questo caso, tutti i computer che forniscono questo servizio di traduzione, diciamo così, sono paritetici, non c'è un ordine di gerarchia. E quindi c'è, cioè, va bene, ok, non scendo nel tecnico perché magari chi si chi in parole povere sito. Non c'è qualcuno che gestisce domini più importanti o server più importanti nella gerarchia, quindi non c'è qualcuno che può abusare in maniera così sostanziale come ha fatto VeriSign della struttura DNA, come invece è possibile fare con la struttura DNS. Esattamente, l'obiettivo è proprio quello. E diciamo, lo stato del progetto, oltre al fatto che, come dicevi, va bene, diciamo, sono 2 anni, però non è stato marcato stretto, ma si sta allargando in questi 2 anni, consolidandosi. Lo stato del progetto qual è adesso? Lo stato del progetto è questo: lo sviluppo di DNA lavora su 2 binari paralleli. Uno è la creazione di un protocollo, cioè di un meccanismo che renda possibile questo concetto di orizzontalità e di scardinamento delle gerarchie, e dall'altro lato ovviamente l'implementazione di software che poi realizzi questa cosa per essere poi utilizzato di fatto sulla rete. Il lavoro che deve scardinare il meccanismo gerarchico è ancora nella fase embrionale. Invece, per quanto riguarda il software, è già stata scritta una notevole parte di software, per cui esiste già, diciamolo, come si chiama, diciamo, il software si chiama RNA. Ah, così, proprio. Perché il progetto DNA, il software si chiama RNA. La. E il protocollo si chiama DNA internodo. Genoma che cos'era? Genoma è l'interfaccia grafica. Ah, vedi, mi ricordavo. Genoma è il client di configurazione. E per cui in realtà la base di software già consta del server che si occupa, cioè del programma che si occupa di fare la risoluzione dei nomi, mentre invece ovviamente è ancora da scrivere il programma che scambia le informazioni fra i server per tenerli tutti aggiornati fra di loro e quindi rendere il sistema consistente, proprio perché prima di scrivere il programma bisogna creare il protocollo che ci sta dietro. Diciamo che quindi fare quel lavoro teorico che è ancora diciamo in embrione. Che scrivere o pensare un set di regole che gestiscano queste comunicazioni, che gestiscano una parte così fondamentale della rete, che un set di regole che prenda in considerazione tutte le possibili casistiche di quello che può succedere nella rete, non è per nulla facile, non è per nulla semplice. Che altro è un'operazione mastodontica. È sicuramente, diciamo, molto più difficile se non lo vuoi fare in modo gerarchico, come esatto, adesso, ma in maniera completamente orizzontale. Soprattutto creando un'infrastruttura come la si vuole fare in maniera completamente, diciamo, in cui non ci sono dei nodi preponderanti, non c'è una struttura piramidale. Esattamente. Facciamo stacchetto. Una pausa e poi stacchetto. Raccontiamo l'ultima cosa? Sì, stacchetto. Va bene. Stacchetto. 3:21, sempre Radio Popolare, sempre Vacia Pai Mouse. Che abbiamo palle, detto che basta, sempre vabbè. Tardi fanno. Sempre, andati se a lavorare. Veramente, già dato, non abbondantemente. Più, basta, dateci la vostra coca allora. Ma stato, così, non così. Lavorano mai. No, tutti di rendita fatti. Vivono, tutti di rendita. Per questo vogliono aprire l'entrata di caffè senza licenza. Esatto, i lavoratori. Esatto, esatto. Abbiamo detto che c'era un ultimo argomento, un argomento proprio easy di chiusura. E quindi Odo fa in modo di non farlo diventare not so easy, un'epopea. Esatto. No, semplicemente anche quest'anno si fa il Linux Day a Milano, siete invitati tutti. Cos'è? Il Linux Day sarebbe da chiamarlo. Mi sono fregata da sola con questa domanda, lo so. Sintesi, e lui ha detto quest'anno Linux Day, ciao. Perché si incomincia, esatto. Gli antichi non avevano il concetto di zero. No. Esatto. No, ci sono menate tipo il fatto che qualcuno spinge per chiamarlo GNU Linux anziché Linux, però in pratica il concetto. Sì, esatto. Cioè, ci sono degli strani gesti a mia sinistra. Però quel famoso Linux di cui si parla, spesso, diciamo, questa è l'occasione buona, l'occasione più semplice per poterlo vedere in una dimostrazione pubblica, aperta, che si svolge in centinaia di città in Italia, per cui esiste questa possibilità. Allora, e si svolge in contemporanea. Io credo di che se gli ascoltatori della CP Mouse non sanno cos'è Linux, noi domani possiamo andare a zampare la terra, però per ogni evenienza puoi magari dare una introduzione minimale di cosa sia. Molto minimale, perché guarda che ho un pericolo. È strano, è strano perché con tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, il fatto che non sappiano ancora cosa sia Linux. Allora, lui ti dice in ordine di apparizione, quando proprio vuole essere sintetico, ti dice perché Windows è male, Linux è il bene, Linux è bello. Linux giusto? È bello. Okay. Comunque non vorrei adesso salgo in cattedra. Va bene, No, che la rompi. Dai, sì, veramente. Salgo in cattedra, scricchiola, ma mi tiene ancora. Per poco. Di solito si dice dove, come, quando, chi e perché. È le cinque regole d'oro. Come non si dice mai? Del giornalismo. Come? È già detto, cioè, certo. Le cinque regole del giornalismo. Quando scrivi un articolo devi toccare. E cominciano tutte col W doppio. Come non inizia col W doppio? In inglese? How? In inglese? Neanche in inglese, mi spiace. Va bene, quindi dicevo, se riusciamo a dire per esempio dove, come, chi, quando, perché, secondo me siamo sulla buona strada. Sì, il 29 di novembre, un sabato. Niente, era una cosa. Continua. Facevo dei gestacci io stavolta, ma così non pensavo di ammutolire tutti. No, ci sono un sacco di eventi, tra cui il Linux Day. Si terrà a Milano praticamente nella scuola media Manzoni. Questo passaggio me lo annota e guadagnato un sacco di punti paradiso. Adesso continua. Sì, diciamo che se non avete niente da fare si può andare, niente di meglio da fare si può andare a Linux Day. Ma quanta reclami stai facendo? No, nel senso a Linux Day? No, scusate. No, era per i punti paradiso. Perché gli è piaciuto il punto paradiso. Vabbè, ma in questo Linux Day cosa diavolo succede? E dove soprattutto? Si svolge alla scuola media Manzoni, che è praticamente quella dove c'è l'Anteo in piazza 25 Aprile, vicino di fianco allo Smeraldo. Bastione Portavolta. Lì. Sì. Per Milano, perché a dire il vero il Linux Day viene celebrato, tra virgolette. Questo l'ha detto, sei tu che sei disattento, perché questo l'aveva detto in Noi in che partenza. Siamo di Milano. Cara miseria. Dici cosa fanno al Linux Day. C'è una serie di conferenze, seminari, presentazioni, dimostrazioni e Ricchi premi Cotillon, espositori. Tra l'altro esiste quest'anno una parte, diciamo, più bassa. No, ma scusa, adesso. Ma chi cazzo lo organizza? E alla fine vi vendono anche le pentole. Vabbè, quelle sono d'obbligo, sì, ma con gita o senza? Con gita. Con gita in torpedone. Con gita in torpedone, perché sono le torpedone in pellegrinaggio alla casa di Lino Storva. Ah, va bene. Che insomma ci vuole un po' di. Bisogna giusto chiedere un attimo le ferie, però pazienza. Sì, Linux Day viene organizzato da un gruppo di realtà milanesi che sono comunque sempre legate alla diffusione di questo sistema operativo e sono praticamente il Open Labs, che è un'associazione culturale, il MILUG, cioè il gruppo di interesse su Linux di Milano, il Loa Club, in quanto un attimo di tifo di sottofondo, scusate, aspettavo la ola, no l'alito, la ola si è sciolto il microfono. Sì. Beh, però mai una litata di ciccio è morto anche il microfono. Se ti guarda dritto negli occhi si spacca, cioè cosa vuoi? Per questo il microfono negli occhi. Ed altre, tra cui ad esempio il Lugleo, cioè il gruppo di utenti Linux al Leoncavallo, come pure ad esempio il gruppo di utenti Linux della Bocconi. Alla Bocconi esiste un gruppo di utenti il Linux. Blueberry Pie si chiamano. Ma possono? Il Blueberry Pie. Secondo me sì. No. Sì, secondo me no. Ma loro fanno pagare però, sono si occupano, attenzione, si occupano gli da parte che hanno pagato Linux. No, si occupano piuttosto, può essere interessante per eventuali sponsor. Vedi che c'è l'altro trucco. Sì, sì, il trucco è non è software libero, ma libertario. No, nel caso ci sia interesse da parte di aziende, sponsor, eccetera, possono contattare l'organizzazione che poi li regira ai bocconiani che provvedono a pagare una cifra vera. Per fargli organizzare baracchino, banner, presenza sul manifesto e attività di questo genere. Però per un'azienda è, penso sia importante o rilevante il fatto di farsi spiacere, pubblicità in quel modo. Ah, cioè, qui, vabbè, non facciamo polemica. No. Veramente divento cattivo, cioè, mi spunta il canino e... No, diciamo che l'alternativa poteva essere che la gestione economica la facciamo fare a Leo, però sarebbe stata leggermente differente. In questo caso ci saranno una serie di personaggi, una serie di ospiti. Tipo? Dovrebbero esserci alcuni sviluppatori di applicazioni. In questo momento abbiamo ancora un elenco aperto. Non è una televisione, è una radio. Se tu non parli la gente non ti vede. E in compenso parte la sirena fra un pochino. No, era colpa mia, mi sono fatto diversi strani, l'ho distratto. No, praticamente esiste una serie di conferenze e una serie di ospiti. In questo momento abbiamo ancora siamo ancora in attesa di conferme da parte di parecchi. Molto probabilmente ci sarà Cortiana, che è stato presente a tutte, il senatore Cortiana dei Verdi. Che è stato presente a tutte le passate edizioni, per cui diventa una specie di simbolo umano dell'interesse politico. Simbolo umano, mamma mia. La Madonna. Dell'interesse un monumento equestre. È tipo i grossi uccelli che fanno da... È un monumento equestre, proprio. Tipo la pastorella di Fatima. Ma scusa, ma... No, non è neanche quel fisico. Ma le cose che stanno dicendo queste cose sono state approvate dal Supremo Consiglio del... Saperlo. Dal Soviet. No, e praticamente in quella giornata lì è possibile. È possibile, ad esempio, per registrarsi sul sito, per evitare... Il sito qual è? Il sito è milano.linux.it e praticamente è possibile preregistrarsi lì in modo da poter arrivare col tagliandino prestampato a casa, evitando la fase o la menata di registrazione. Wow, che delizia. In alternativa è possibile, è come una sfilata di moda. In alternativa l'accredito stampa di Milano vende moda proprio. No, diciamo che teoricamente servirebbe per avere una previsione di presenze. In questo caso vi arriva via mail il tagliandino da stampare. Vuol dire che uno deve dire io mi chiamo Ciccio Pasticcio e il mio indirizzo di posta è questo. L'alternativa invece è quella di andare lì e registrarsi direttamente, a questo punto dal terminale te lo stampi e non ti viene chiesto nulla di più di quello che non vorresti dire. Che diventa la soluzione più semplice senza troppi. Bene, quindi abbiamo detto 29 novembre, scuola media Manzoni, sì, dalle 9:10 di mattina fino alle 7 di sera. Ripetiamo l'indirizzo del sito dove reperire le informazioni. Il sito è http://, solito, poi milano.linux.it. A questo punto sono le 3:30 precise. E quindi noi apriamo le danze. Adesso c'è il momento vero della trasmissione in cui rilanciamo i veri argomenti. Ci sono le prossime due ore tutte su un unico incredibile argomento. Certo, la visione della corazzata Potemkin, naturalmente. La digitalizzazione della corazzata Potemkin. Avrei un impegno, ovviamente. Penso che vi io enuncerò tutti i dialoghi mentre Ciccio commenterà le scene. Ma siccome io non voglio... C'è un intervento interessantissimo sul remastering in digitale delle scene montate in analogico. Ma siccome a quei poveretti di ascoltatori che ci hanno seguiti fino qui, noi li vogliamo anche un po' bene, quantomeno perché non sono morti. No, glielo mandiamo sull'RDS in Asciarte. A questo punto gli diciamo che sono sempre le 3:30, anzi fra 4 4 secondi, sono le 3:31. Che precisione è questa radio, fa un'informazione proprio puntuale. Puntuale, puntuale, Svizzera, quasi direi. Svizzera proprio. A Svizzera lo vai a dire a... Questa è Era, Vacia Pai Mouse, perché mo andiamo a nanna, anche noi, e Radio Popolare, buonanotte, ciao. Ci vediamo domani, ciao. A domani, ciao. Trippon, serve un po' di Windows, ma Vacia Pai Mouse. Vacia Pai Mouse. Incontri e avvistamenti dalla strada al cyberspazio. Un programma a cura dell'OA di Milano.